Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno un cazzo a tutti ragazzi, benvenuti qua su runtimeradio.it, www.runtimeradio.it, dove ci sono tutti i meravigliosi programmi che alle 7 di mattina vi aiutano ad aprire gli occhi ed affrontare il resto della giornata, oppure farvi venire la voglia di ricoprirvi e girarvi dall'altra parte. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Intanto diamo il saluto a Walter Sbano, cuciniere Gianluca, e ovviamente anche a Leo Vargion, che è presente qui tra noi in chat. Tra l'altro, prima della trasmissione abbiamo iniziato a fare conversazione parlando sul quanto è stupido ancora oggi cambiare l'ora. E mi ricordo che quando capita di fare qualche conversazione con qualche americano, ancora ci domandano: ma voi ancora fate quella cosa che cambiate l'ora? Mo, è vero, hanno ragione. Però uno gli risponde: ma voi ancora andate nelle scuole a sparare i bambini? Perché insomma, anche questo è, insomma, ognuno ha i propri difetti. Credo che nella stupidità di cambiare l'ora d'estate e d'inverno per quella pretesa cosa di risparmio energetico e via dicendo, alla fine, secondo me, insomma, pesa di meno sul computo dei danni che facciamo all'umanità. Detto questo, invece, Walter Sbano ha sfoggiato, come da un po' di tempo a questa parte, i suoi nuovi stickers su Samara. Ricordate il film The Ring? E prima di iniziare la trasmissione voglio raccontarvi questa cosa, perché secondo me è un po' un buongiorno un cazzo anche questo, tutto sommato, perché sai quelle cose che ti succedono e dentro nell'anima un po' ti fanno incazzare, un po' tanto ti fanno incazzare, perché dici veramente la gente è proprio stupida, cioè, e a volte hai quel disprezzo nei confronti delle persone che insomma, lo sapete, no? Vabbè, insomma, c'è la Statizia, che tra l'altro è un'amica di Luca Casciola, quindi insomma facciamo nomi e cognomi così, e che non so per quale ragione eravamo diventati amici su Facebook. Ogni tanto capitava rarissimamente che ci scambiavamo, insomma, due chiacchiere così, tanto per. E mi ricordo che una volta, praticamente, questa è un tipo veramente un po' strana, no? Cioè, nel senso, non racconterò questioni che non mi riguardano, quindi va bene. Però a un certo punto, un giorno, lei si fece una foto con questo trucco molto pesante e questi capelli neri tutti davanti al viso, dove da un solo da una parte si vedeva questi capelli neri, capito? Lei bianchina. Io ho scritto: ah, Samara, così, cioè, ride questa cosa perché sembri Samara. E lei: non so a cosa ti riferisci. Beh, sì, la bambina di The Ring. Allora, vi dico soltanto che immediatamente sono stato cancellato dagli amici, cioè senza pa, così, vabbè, sì. E sti cazzi, dico: scusa, ma che è successo? Ah, tu non puoi essere nella mia cerchia, non puoi avere un contatto con me, perché tu mi insozzi l'anima, perché dentro di te c'è l'oscurità, c'è il buio. Io ho messo una cosa allegra e tu ci hai visto la morte. E io ho detto: guarda che io cioè, so tutto, posso essere stronzo, strano, nervoso, una persona insomma che a volte esagera nei comportamenti, ma di sicuro tutto tranne che il buio c'ho dentro, a differenza dalla foto tua, che insomma se fossi te io ci farei no tu c'hai il buio. Poi questa cosa mi ha fatto veramente incazzare, perché a me veramente quando mi dici una cosa che non sta né in cielo né in terra, a me mi veramente mi incazzo. Però niente, vabbè, praticamente questa l'ha cancellato perché io c'avevo il buio dentro, perché lei si era fatta la foto da Samara, perché io ci avevo visto il male, invece era una foto solare. Cioè voi vedete una ragazza bianca con tutti i capelli neri davanti e se vede a malapena un po' l'occhio col trucco pesante, ma voi che cazzo vi viene in mente, mortacci tua. Vabbè, comunque sti cazzi, e vi metto il brano iniziale perché serve per capire un po' quello di cui parleremo durante questa mattinata, con le forze residue che mi sono rimaste, perché stanotte il cane ha vomitato e io non ho dormito bene per la preoccupazione. Poi in realtà alla fine sta meglio di me, insomma. Quelle cose che ti ricordano che un giorno sei stato giovane. Sei stato giovane nel tuo impegno, nel tuo partecipare, nel tuo credere in qualche cosa. E questa canzone, In Tillimani, El Pueblo Unito, a Massara Vencito, è una canzone che c'ha un'importanza. La rimetto sotto così, giusto per il principio, perché sono un po' così adesso. Cioè, è collegata con quello di cui voglio parlare questa mattina, però poi ascoltandola chiaramente non può anche venirmi in mente qualcos'altro. è un po' nell'indole di Buongiorno un cazzo, perché quando ascolto queste cose mi ricordo un mondo che molti ragazzi, molti della generazione successive non conoscono, no? E non è soltanto il mondo della guerra fredda, ma anche della partecipazione sociale, dell'attivismo politico, dell'impegno, dell'esserci, del partecipare, del conoscere ovviamente come funziona uno Stato, ma anche quando non lo conoscevi pensavi che alcune cose non erano giuste, allora tu partecipavi insieme agli altri, nel collettivismo, nell'idea, nel principio che avevi comunque condiviso con altre persone, no? E alla fine, quando nel mondo c'erano quelle forti forze di ispirazione socialista, il mondo era più in equilibrio. E questo è una cosa assolutamente innegabile. Per quanto Cina e Russia cerchino con spettri echi del passato di controbilanciare una lotta di potere, in realtà quando anche nei paesi democratici europei c'erano delle fortissime forze di sinistra, questi paesi erano comunque più bilanciati, più in equilibrio. Poi dopo c'è stato un periodo in cui ci hanno inserito nella testa questa cosa dello Stato come un'azienda, del liberismo, dell'anticomunismo, che per carità ha magari dal suo punto di vista anche una sua fonte, no? Un suo punto di partenza. Però poi alla fine questa distruzione sistematica di un soltanto specifico segmento della politica, che si è lasciata distruggere comunque anche mostrandosi debole, mostrandosi disgregata, disunita, disgregandosi anche per colpa di un'incapacità di mantenere quella che era una delle forze più importanti, cioè l'autocritica, e alla fine questo è quello che è successo. E io mi domando sempre come fanno le forze di sinistra oggi ancora a non capire quello che è successo dal punto di vista elettorale, anche grazie ai social media, e a non utilizzare i social media per ricostruire un pensiero di sinistra, un pensiero anche unitario, collettivo. Ma è difficile riuscire a fare una questione del genere se ovviamente non c'è un'unitarietà. Allora io riparto da un presupposto, ripartire dal presupposto ideologico. Quella cosa che ci hanno insegnato che era sbagliato, le ideologie erano sbagliate, il pensiero condiviso su un presupposto ideologico era un errore. E chi è che ce lo diceva? Ce lo dicevano gli americani, che sono il fulcro di un'ideologia, ce lo diceva il Papa, che ha secolarizzato un'ideologia. Però le ideologie erano sbagliate, ma quali ideologie erano sbagliate? Probabilmente il presupposto per il quale il tuo comportamento viene profondamente condizionato da un principio ideologico è sicuramente sbagliato. Ma avere un punto di partenza, un pensiero condiviso con il quale appunto aggregarsi e partecipare insieme a un certo tipo di discorso, secondo me poi alla fine comunque non è quell'errore che tutti avrebbero voluto farci credere, insomma, anzi avrebbe potuto essere anche un qualcosa di positivo tutto sommato, anzi dovrebbe, perché oggi dovremmo ricominciare da quel punto di vista, cioè piano piano ricostruire da zero un qualcosa, perché io vedo, tra l'altro, al di là dell'ignoranza, della disinformazione, del fatto che oggi i social comunque danno voce a persone che 20 anni fa non avrebbero saputo neanche come alzare la voce o cose del genere, e alla fine comunque c'è da intercettare tutta una serie di persone, di contesti, di insoddisfazioni, di disagi che comunque dovrebbero rientrare a quella che una volta era casa loro, perché comunque diciamo che il mondo operaio, i diritti delle donne, tutta una serie di determinate cose che comunque erano molto più contestualizzate in un pensiero, in una forza di sinistra. È vero che oggi le donne stesse combattono fra di loro se sono interessate o no a quel diritto, o se sono più interessate al dover mostrare le tette sui social, questo sicuramente, ma la stessa cosa vale per l'operaio, perché l'operaio ovviamente vede il suo diritto come il diritto di fare meno possibile rispetto a quello che dovevo fare. Una volta c'era comunque più impegno, più rispetto anche verso le cose che si facevano, e non è una questione di era meglio, era peggio, era comunque una situazione, era un contesto, cioè quello si faceva, c'era anche più rispetto proprio anche per l'istituzione. No? Per quanto tu la disprezzavi, per quanto tu la lottavi in qualche maniera, gli facevi battaglia, ma la facevi in un certo tipo di contesto, no? Poi ovviamente c'erano sempre le situazioni estreme, quelle più più arcigne, diciamo così, che sicuramente non se negano, e non se negano mai a nessuno comunque in generale. Però non è soltanto questo, soltanto ovviamente questa è una trasmissione, è la mia trasmissione, la trasmissione con la cover rossa e che secondo me era la maniera più esplicita e lampante, senza mettere simbolismi, come posso dire, estremamente palesi, per dimostrare qual è il mio punto di partenza, che è un mio punto storico per quale non ho mai fatto insomma segreto, non mi sono mai nascosto dietro questo tipo di discorso, perché comunque vedo il mondo secondo quel tipo di crescita e di costruzione che ho fatto di me stesso. Però ribadisco, al di là di questo, quindi al di là dei pensieri di destra, di sinistra, essere liberali / liberisti, che sono due cose tra l'altro completamente diverse, o l'essere socialisti / comunisti, che sono due cose sostanzialmente diverse, e quella che io vi faccio oggi a voi in questo momento, magari scrivetelo durante il brano che sto per lanciare, oppure mi mandate un audio, perché comunque potrei anche assolutamente farlo ascoltare, così come ogni tanto fa Leo Varghion durante il libro Game sui fantasmi. Ricordiamo Leo Varghion lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 8, sempre qui su www.tarantemradio, oppure come fa ogni tanto Walter Sbano quando gli mando i messaggi audio alle orazioni della sera dalle 8, dalle 20 alle 20 e 30, durante il martedì, mercoledì e giovedì, insomma, quindi sempre su www.tarantemradio.it. La domanda che vi faccio è: qual è il comportamento più naturale dal punto di vista storico e antropologico? Attenzione, è una cosa importante, comportamento più naturale, quindi andiamo a ritroso, proprio un bel po' a ritroso, che l'uomo mette in campo praticamente da sempre. Counting the stars like city lights. I don't know where I'll end up. lost in the ashes. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running. I'm running, I'm running, I'm running from myself. Axel Art, ragazzi, Criminal, che bella una canzone, si chiama Criminal, ti aspetti what the fuck, invece sta canzoncina così un po' delicatina, no, la caruccetta, insomma, Criminal, Criminal, si chiama Criminal, non è che io ho messo io il titolo, insomma, quindi se vedete che sto contenti così, tutto sommato anche caruccetta, insomma, una cosa che si può ascoltare la mattina mentre stai facendo una trasmissione dove fai una domanda sul comportamento storicamente più rilevante dell'uomo dalla notte dei tempi. Mi sono perso parte della domanda, potete scriverla? No, te la ripeto se vuoi. Ho domandato qual è storicamente, antropologicamente, il comportamento più naturale dell'uomo sin dalla notte dei tempi, cioè nel senso andando proprio a ritroso. Ma e c'è già una risposta che probabilmente avrà un senso nella sua intrinsecità e ermeticità, perché posso rispondere solo per me senza zucchero, grazie, di Walter Sbano, che vabbè non l'ho capita, insomma, facciamo che non l'ho capita. No, facciamo, non l'ho capita, quindi inutile far finta di non aver capito ciò che non hai capito realmente. Allora, la mia idea è questa. Diciamo che sì, da quando l'uomo ha iniziato ad andare dritto, cioè camminare più o meno dritto, diciamo così, e una cosa che è stata fondamentale per la sua crescita e che si è ripetuta costantemente nell'arco di tutta quanta la storia che noi conosciamo, dalla preistoria fino alla storia più moderna, e che ha amplificato sempre di più a step, ovviamente, questa cosa è l'unificazione, l'unità di piccoli gruppi in tribù, in famiglie, in ceppi familiari, poi in clan, poi in tribù, hanno aiutato comunque l'uomo a sopravvivere al freddo scaldandosi, alla fame aiutandosi, alla morte difendendosi anche, perché questo è un comportamento insito in generale in gran parte degli animali che vivono con il concetto del branco, più istintivamente, molto più intuitivamente nel discorso della crescita umana, perché comunque chiaramente poi l'uomo a un certo punto ci ha avuto quel quid in più, quella luce in più che alcuni hanno chiamato semplicemente evoluzione, altri hanno chiamato la mano di Dio, altri hanno chiamato Shambling Duck Black. Però insomma, qualsiasi cosa sia, l'uomo a un certo punto ha cominciato ad avere una coscienza, un pensiero consapevole, la capacità di un ragionamento astratto, e quindi anche di estendere il proprio pensiero non solo nella percezione ma anche nell'immaginazione, no? E quindi l'uomo poi alla fine comunque ha raccontato la sua storia, che anche sin dagli albori, che era una storia di sopravvivenza, di caccia, di difesa, appunto, di calore, di unità, anche difficile, perché chiaramente piano piano l'uomo all'interno di questi contesti ha dovuto inserire delle regole, delle leggi, ciao cane, ha dovuto inserire chiaramente dei presupposti che anche qui una sovrastruttura, che di per sé è un concetto più o meno astratto inizialmente, poi diventa sempre più codificato, no? Che è quello dei comportamenti. I comportamenti ovviamente per vivere serenamente all'interno di una comunità. Ecco, questo secondo me è uno dei comportamenti primari, no? Che noi ci portiamo dietro dalla notte dei tempi, e che da clan ovviamente è diventata villaggio, da villaggio è diventata città, da città è diventata stato, è diventata regno, è diventata impero, ovviamente anche con i suoi alti e bassi, quindi salendo, costruendo, espandendosi, poi magari ridisgregandosi e ripartendo dalle proprie ceneri, perché chiaramente un altro elemento che possiamo ritrovare sempre nella storia è quella della ciclicità, no? della parabola di un'intera civiltà, perché poi ovviamente ogni civiltà chiaramente ha avuto ha una data di scadenza, fondamentalmente questo la storia ce lo insegna. Però senza estendere questo concetto appunto alle civiltà, ritornando all'uomo, l'uomo ha vissuto grazie all'unificazione, ha vissuto poi, possiamo andare a trovare tutte le varie differenze dei casi, le varie situazioni, le varie specificità sicuramente, però questo è un po' il discorso che noi abbiamo visto, l'abbiamo visto anche, lo vediamo anche che nei periodi più bui della nostra storia sono proprio i momenti in cui questa volontà di aggregazione è stata più contrastata, no? Ma perché questo? Perché tutto questo pensiero, questo pistolotto? Per dire una cosa poi anche ovvia, che il sovranismo in generale, ogni attività disgregativa che è fortemente in atto in questo momento a livello globale, perlomeno in maniera particolare in Europa, è un'attività antistorica. Antistorica non soltanto perché noi politicamente la contrastiamo e non la condividiamo, ma è antistorica perché inevitabilmente la disgregazione porta debolezza, porta meno potenzialità nelle capacità di difensive, meno potenzialità nella raccolta delle risorse, meno potenzialità nel tenerci tutti al sicuro e caldi, ma è inevitabile che è così. Ma chi chiede la disgregazione non è interessato al risultato finale, chiaramente, e vedi anche il Regno Unito, ma lì c'è anche un discorso, torniamo alla quella cosa che abbiamo detto all'inizio, un discorso ideologico, cioè dove il Regno Unito veramente pensa di essere ideologicamente, culturalmente superiore a tutto il resto, no? Scusate, la morte mi accompagna, chiaramente ci vorrebbe dell'acqua quando faccio ma la prossima volta mi ricordo di portarmela. Però appunto chi crea o chi incita, chi inneggia la disgregazione lo fa magari con temi più o meno convincenti, ma questa è una cosa che noi abbiamo visto tantissime volte nella storia, ma che chiaramente quello che la gente non riesce a capire, e poi arriviamo al punto del perché la gente non riesce a capire, è che il risultato finale, quindi l'indebolimento grazie alla disgregazione, è un risultato che chi cerca questo tipo di azione non interessa. Perché un politico in generale dovrebbe avere interesse verso la distruzione della sovrastruttura che comunque in qualche maniera comanda? Facciamo un passo indietro. Se io sono una realtà dove c'è un re, c'è un governatore, diciamo così, aderisco a un contesto più ampio, è ovvio che scendo a dei compromessi. Questi compromessi devono essere comunque bilanciati, comunque devono essere moderati, anche trattati in qualche maniera, perché sì, io accondiscendo a non concepire tutte le mie leggi, tutta la mia struttura politica secondo il mio punto di vista, ma cerco di aderire e contribuire a un contesto più ampio, quindi dove insomma io sono tenuto in considerazione il giusto, però è vero pure che comunque però devo, in questo contesto più ampio, se io comunque cedo questo tipo di discorso, dall'altra parte alla fine grazie Mercedes che sta in finestra praticamente. Va bene, tutto a posto, e grazie per l'acqua. Comunque cioè deve essere questo scambio, cioè io accetto di fare una politica e di aderire a una politica più ampia dove non sono io il centro dell'attenzione, ma allo stesso tempo comunque i miei punti necessari, comunque la politica più ampia li deve tenere in considerazione. È un compromesso che in qualche maniera ti dà a te la garanzia di far parte di qualcosa di più importante e quindi allo stesso tempo qualcosa di più aggregato, più stringente, più potente da un certo punto di vista. Se vogliamo proprio utilizzare anche questi termini che magari ci fanno sentire un po' più gagliardi e tosti. Però il governatore, che comunque ha fatto questa mediazione, che comunque in qualche maniera ha trovato questo compromesso, in quel momento è più delegittimato rispetto a prima. Cioè ha la sua funzione che è più meramente legata a un'amministrazione ordinaria di un contesto piuttosto che a una vera posizione decisionale, perché le posizioni decisionali in quel momento sono spostate in un altro ambito, quelle più importanti, no? E quindi la disgregazione, il sovranismo, non la federalizzazione, che quello è un altro tipo di discorso di cui magari una volta parleremo, ma la disgregazione alla fine a chi giova? Giova alla gente che veramente si pensa che tornando alla lira avremo maggiore potenza economica, maggiore indipendenza, dove potremo difendere veramente i nostri prodotti, il nostro territorio? Ma a chi imposta questo tipo di logica? Non gliene frega un cazzo di questa cosa. Quello che gli importa veramente è distruggere questo compromesso per tornare in prima linea nelle azioni decisionali del territorio, o di un territorio più ampio, comunque di tornare dal punto di vista decisionale il punto focale. Quindi il feudo, cioè ok, cioè nel senso quello è il mio feudo dove metto gli uomini che dico io, faccio fare gli affari, le aziende che dico io, lo faccio con i soldi che dico io. Perché? Perché ovviamente in quel momento tu ristabilisci una struttura di potere. Struttura di potere che oggi, pur esistendo ancora, comunque è sovrastata da, teoricamente, da una sovrastruttura, che è quella, nel caso dell'Unione Europea, che tra l'altro non è nata come federazione tra popoli e paesi completamente diversi l'uno dall'altro, perché noi vediamo l'America come una cosa unita, ma l'America è probabilmente disunita tanto quanto l'Europa culturalmente, comportamentalmente e anche politicamente da un certo punto di vista. Però lì hanno fatto una federazione basandosi sulla forza, cioè nel senso lì comunque erano ammazzate. Nascita di una nazione, andatevelo a vedere il film, che insomma è abbastanza importante se sopportate di vedere una cosa in bianco e nero col muto. E invece l'Europa è stata concepita più culturalmente, più idealmente, anche cercando di superare le barriere. Questa nuova tendenza alla disgregazione, alla distruzione, ovviamente ha dei motivi economici, di interesse, a dei motivi politici, non c'ha, ma motivi politici non dal punto di vista concettuale o evolutivo, proprio dal punto di vista dell'interesse del singolo soggetto, dei singoli soggetti, riappropriarsi loro dei loro interessi, convincendo la gente che quello è un bene, che quello è giusto così, che è un punto di partenza per ritornare ad appropriarci del nostro destino. Ma il destino di cui ci si riappropria è solo loro. Show Me What You Got, e questa è A49s, ragazzi, sempre dal meraviglioso mondo di jamendo.com, il sito francese di musica Creative Commons che da ben 11 anni ci accompagna. Anche se prima l'avevamo proprio fatta sparire la musica, mo c'è rivenuto, insomma. Perché sai, poi alla fine fai la radio, fai i talk show, vabbè, quando fai i talk show, i salotti, è importante, no? Però quando poi invece fai le trasmissioni come queste, dove c'è uno speaker che dice cose, comunque alla fine la musica è importante, non c'è niente da fare, cioè comunque ti aiuta un po' a spezzare, cambia un po' il ritmo, cambia un po' anche il tono, magari del contesto. Giustamente Francesco in chat ci dice che il sovranismo è analcronistico. Giustamente, sì lo è di fatto, perché chiaramente c'è un interesse dietro alla voglia di disgregazione. E qui mi rivolgo a prima dicevamo del perché la gente crede a queste cose. Noi, me in particolare, puntiamo spesso il dito verso i social, no? Dicendo che i social hanno portato una banalizzazione, fake news, la gente si informa così, legge il titolo, si indigna, poi magari l'articolo dice un'altra cosa o addirittura è una fake news, qualcosa di assolutamente costruito apposta. Io ricordo sempre quell'aneddoto che ogni tanto ritiro fuori, che però mi fa piacere, perché lo ritiro fuori proprio perché secondo me era l'emblema, ma talmente segnato quella cosa in qualche maniera, che mi ha fatto anche riconsiderare su comportamenti che magari c'avevo pure io, perché magari tante volte all'inizio non me ne accorgevo, magari lo facevo pure io. Vergogna. Vabbè, diciamo che io, per esempio, quando ho preso la foto dei Ray Charles, ci ho scritto una cosa, ci ho fatto un meme sopra, l'ho pubblicato, questo uomo di colore prende le nostre pensioni di invalidità, mentre che Gianni che ha fatto l'operaio per tutta la vita muore di fame, cose del genere che andavano molto di moda a un certo punto. Però c'era questa cosa del tizio che aveva condiviso sta cosa che a Torino stavano aprendo le chiese sataniste, no? Le chiese sataniste, che poi alla fine era una cazzata. Io comunque sono andato a documentare, ho cercato vari articoli, insomma avevo trovato tantissimi articoli che parlavano proprio di sta news, che poi in realtà era falsa. E io al tizio gli ho detto: guarda che questa notizia è stata smentita da più fonti, cioè non è è falsa, non è vera, è uno schifo lo stesso, mi rispose. E sai quando vuoi tu, a volte è anche giusto non avere più niente da dire, che va bene così. E comunque non è i social in sé, esiste un problema più grande, il fatto che la gente non legge, ma non legge non i giornali, gli articoli, proprio la gente non legge. Non leggono i libri, non leggono i romanzi, non leggono i saggi, non leggono le fiabe, non leggono i racconti. Leggere è importante perché non soltanto ti aiuta a strutturare il linguaggio in qualche maniera, ma ti apre la mente, ti aiuta a fare degli esercizi di fantasia, di creatività anche nella tua mente. Anche soltanto leggere un romanzo di formazione, immaginarti il contesto e le situazioni, ma non soltanto. Leggere ti aiuta anche a capire com'è il mondo, com'era il mondo prima, ok, come il mondo adesso. Quindi è leggere, è importante, ragazzi. Bisogna dire alle persone, quando parlano le persone, leggiti un cazzo di libro, brutto stronzo, invece di dire stronzate. Io sento la gente parlare di cose di cui a malapena sa pronunciare i nomi. Oggi va di moda la parola resilienza, senti la gente parla di resilienza, e io però qualche anno fa, ma scusa, che cos'è la resilienza? Adesso non lo faccio perché sono diventato un vecchio becero che se fa i cazzi suoi, però insomma una volta avrei insistito. E a me poi tutta questa gente che non legge e che quindi inevitabilmente assottiglia la propria capacità di pensiero fino a diventare stupidi, perché siete stupidi, cioè quello che il politico poi è paraculo, perché non dice voi siete stupidi, siete, oh, come ti permetti di insultare l'elettorato, no sono stupidi. Sono stupidi, ma non è una cosa irreversibile, irrevocabile, è una cosa che si può curare, la stupidità, in certi casi, in quando poi la stupidità è patologica o, o proprio endemica della persona, no, però insomma in generale comunque un certo tipo di stupidità si può curare con l'istruzione, con l'esercizio mentale, comunque col ragionamento, l'essere abituati a ragionare, anche essere abituati a fare una conversazione. E tutti questi stupidi che ce l'hanno con i mega complotti sul vaccino, gli idranti col virus, tutte queste stronzate che non vi rendete proprio conto quanto siete imbecilli, e non vedete perché chiaramente siete distratti dalla merda, e quando avete la merda davanti alla faccia non vedete che il complotto più ampio, quello vero, quello più globale, si chiama proprio disgregazione, si chiama proprio andare da quei paesi talmente mezzi sottosviluppati come la Polonia e l'Ungheria, perché qui stiamo parlando di gente veramente che è stata prostituta per una vita, quindi figurate insomma se in qualche maniera non sono disposti per pochi spicci a costruire un sistema disgregativo. Perché poi i paesi che veramente non ce l'hanno come cultura, queste cose l'hanno ricacciata indietro. Quindi vai a vedere che comunque c'è questa tendenza oggi a voler costruire una disgregazione politica costruita da soggetti politici che hanno comunque un interesse su questa cosa. E chi può avere interesse, per esempio, sulla disgregazione in Europa, ad esempio? Quali possono essere, secondo voi, i soggetti veramente interessati da questo? Due. Le grandi forze straniere, quindi Russia e Stati Uniti, perché chiaramente è così, coadiuvate da tutte quelle forze interne, quindi da tutte quelle persone interessate al contesto, perché comunque a loro come controprova, cioè come controbilanciamento, gli regalano ovviamente il piccolo potere interno, dove loro possono tornare a decidere, a dire qui comanda quello, oggi lavora l'azienda quella e via dicendo, insomma, non so. Ecco, questo è secondo me il grande complotto che la gente non vede più, non si rende proprio più conto, secondo me. questa la dedichiamo a Leo Vargheon, eh? Tutta per lui, proprio col pensiero e con il cuore. Questa canzone si chiama Icon e loro sono gli Asgard, e mi permettono anche di fare una precisazione sul discorso di Jamendo.com. Jamendo.com è un sito francese perché è nato in Francia, ma non è musica francese, è il più grosso collettore di musica Creative Commons di tutto il mondo. Loro hanno avuto l'intuizione, hanno avuto l'idea, l'hanno fatto, ci sono centinaia di migliaia di brani Creative Commons all'interno da tutto il mondo, compresa l'Italia, gli Stati Uniti, e ci sono stati anche artisti importanti che sono partiti da Jamendo.com. Quindi io non disprezzerei, se fosse stato un discorso strettamente, esclusivamente francese, l'avrei disprezzato anch'io, tanto perché c'è l'unità europea, insomma, chiaramente, no? C'è questa unione di intenti, insomma. Però vabbè, detto questo, secondo me meritano comunque tantissime cose, altre cose invece ovviamente fanno schifo. Vedo che Leo l'ha apprezzata. Michela ci dice giustamente che lei per scelta politica non metterà mai piede in Polonia, Turchia e Ungheria, manco col camper. Beh, l'Ungheria è bella, però il problema è proprio questo, dice Leo giustamente, il problema è proprio questo, che è un peccato, no? Io spero che comunque ci sia un momento in cui appunto ci sia una lotta di ricostruzione, di resistenza all'interno di questi paesi, perché sono tutti e tre bellissimi paesi. La Turchia è un paese meraviglioso, con una diversità culturale e anche paesaggistica veramente importante. La Polonia, ci sono dei siti dove prima o poi nella vita bisognerebbe andare, io non sono mai stato e questo mi dispiace. L'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, sono tutti posti meravigliosi, cioè nel senso sono tutte cose che comunque nella vita bisogna assolutamente vedere. Però è chiaro che in questo momento c'è un disagio proprio culturale, anche perché quello che stanno facendo in particolare in Polonia, in Ungheria, è forse non è soltanto disgregativo, ma è anche antiumanitario. Cioè comunque c'è questa azione atta alla distruzione di diritti umani, diritti delle donne, insomma ragazzi, è roba pesante. Intanto la tosse mi distrugge. Vabbè, niente, questo era un po' il concetto di questa puntata, che magari alla fine comunque in qualche maniera ai 47 ci siamo arrivati, quindi mi posso anche permettere, insomma, di dire la Polonia fa anche giochi buggati, dice giustamente Francesco, facendo riferimento chiaramente a Cyberpunk 2044 2077, sor cazzo, insomma, che alla fine per scelta etica non politica. Sì, è una scelta etica e politica, entrambe, cioè non è che una esclude l'altra, insomma, necessariamente. Bene, ragazzi, io direi che, visto e considerato che a un certo punto la voce, appunto, avete sentito, insomma, che comincia a soffrire, sono riuscito comunque a dire le cose che volevo dire, nonostante appunto essere stato un po' mezzo in dormiveglia questa notte, perché il cane, appunto, come ho detto, mi ha svomitazzato davanti, e quindi sai un po' la preoccupazione quando c'hai queste bestie. Per questa puntata di Buongiorno un cazzo è tutto. Vi ricordo, importante, questa sera Quando eravamo futuro non ci sarà, come l'altra settimana. Questo fine settimana noi saremo ad Avezzano a girare un micro documentario sul museo dell'arcade, che è stato appunto allestito in quel di Avezzano, e quindi questa cosa, la preparazione anche dei testi, delle cose che mi servono da portare, le domande per le interviste e via dicendo, mi hanno assorbito completamente e non sono riuscito a preparare una puntata che comunque è tra virgolette pronta da due settimane, che comunque giovedì prossimo ci sarà al 100% e sarà la puntata di Quando eravamo futuro sul Subbuteo. Vi ricordo invece che oggi c'è l'ultimo appuntamento della settimana con le orazioni della sera di Walter Sbano, dalle ore 20 fino alle 20:30 circa, ma a volte diventano anche le 20:45. Vi ricordo che domani mattina torna Leo Vargheon dalle 7 alle 8 con il mattino loro in podcast, dove si farà una recensione di un film / serie tv di cui non sappiamo, e vi ricordo, insomma, che durante il fine settimana, ragazzi, sarà un po' così. ci saranno le varie repliche, cercherò di prepararle il prima possibile in modo che alla fine possa io andare in pace in quel di Avezzano. Bene ragazzi, questa è www.rantemeradio.it, la web radio geek. Sul nostro sito c'è il pulsante Anche Io, dove potete andare a dare il vostro contributo se volete, una tantum, o se volete periodicamente tramite Patreon, al vostro buon cuore. Se l'avete già fatto, grazie. Se non l'avete ancora fatto, non importa, andate in pace, tanto questo è il nostro contributo all'umanità. Ma se ve la sentite, insomma, dare una mano al progetto, che non è gratis per noi, chiaramente, insomma, ci fa sempre piacere. Ringrazio tutti coloro che sono stati in chat, quindi Walter Smano, Leo Varghion, Michela De Paola, il cuciniere dallo spazio profondo e ovviamente anche Francesco Lobby Frontali. Grazie a tutti e ci vediamo per quanto mi riguarda giovedì prossimo, e ci vediamo invece sabato mattina, in teoria, adesso vediamo, decidiamo, ve lo facciamo sapere domattina tramite Leo Varghion, ma dovremmo esserci con la versione sabatina di Disordinati Informati. Ciao a tutti!